Catherine sedette senza fiato e senza parole. Non riuscivo a credere alle mie orecchie quando l'ho sentito. E nessun dispiacere, nessun risentimento che tu possa sentire in questo momento, per quanto giustamente violento, può essere maggiore di quello che io stessa. Oh, ma non è giusto parlare di quello che provo io. Oh, se solo potessi addurre una qualsiasi giustificazione. Buon Dio, che diranno tuo padre e tua madre? Dopo averti fatto abbandonare la protezione di amici veri per portarti fin qui, a una distanza quasi doppia da casa tua, vederti cacciata senza tener conto nemmeno della più comune cortesia. Cara, cara Catherine, nel portarti un tale messaggio mi sento io stessa colpevole di tutto quello che di offensivo esso comporta, ma sono certa che tu mi assolvi, poiché devi essere rimasta in questa casa abbastanza per vedere che io non ne sono che la padrona nominale. Che il mio potere reale è nullo. Ho offeso il generale, disse Catherine con un filo di voce. Ahimè, per i miei sentimenti di figlia, tutto quel che so e di cui rispondo è che tu non puoi avergli dato nessun giusto motivo di offendersi. Certamente egli è molto, molto sconvolto, raramente l'ho visto più sconvolto. Non ha un buon carattere, ora è successo qualcosa che l'ha irritato in modo insolito. Qualche disappunto, qualche contrarietà che proprio in questo momento gli sembra importante, ma in cui non riesco a immaginare che tu possa aver parte. Come sarebbe possibile? Parlare era per Catherine molto doloroso e ci provava solo per riguardo a Eleanor. Certo, disse, mi dispiace molto se l'ho offeso, è l'ultima cosa che avrei voluto fare, ma non essere infelice, Eleanor, lo sai, bisogna mantenere gli impegni. Mi dispiace solo che non se ne sia ricordato prima, in modo che avrei potuto scrivere a casa, ma ha pochissima importanza. Sinceramente spero davvero che non avrà alcuna importanza per la tua incolumità, ma riguardo a tutto il resto è di enorme importanza. La comodità, le apparenze, le convenienze, la tua famiglia, il mondo. Se i tuoi amici, gli Allen, fossero ancora Bath, potrebbe essere relativamente comodo per te raggiungerli. Impiegheresti poche ore, ma un viaggio di 70 miglia da fare in diligenza alla tua età, sola, senza un accompagnatore. Oh, il viaggio non è niente, non pensarci affatto. E se dobbiamo separarci, sai, poche ore prima o dopo non fanno nulla differenza. Sarò pronta alle 7, fammi chiamare in tempo. Eleanor vide che desiderava essere sola e, credendo fosse meglio per entrambe evitare di parlare ancora, le lasciò con un "Ci vediamo domattina". Il cuore gonfio di Catherine aveva bisogno di sfogarsi. Davanti a Eleanor l'amicizia e l'orgoglio avevano ugualmente trattenuto le sue lacrime, ma non appena l'altra se ne fu andata, sgorgarono a torrenti. Cacciata in quel modo, senza nessun motivo che potesse giustificare, nessuna scusa che potesse fare ammenda per la maleducazione, la scortesia, anzi l'insolvenza di tutto questo. Harry così lontano, non poterlo nemmeno salutare. Ogni speranza, ogni aspettativa che lo riguardava restava ora in sospeso e chi avrebbe potuto dire per quanto tempo? Chi poteva dire quando si sarebbero rincontrati? E tutto questo da un uomo come il generale Tilney, così cortese, così ben educato e fino a quel momento così affettuoso con lei. Era tanto incomprensibile quanto mortificante e penoso. Da cosa potesse nascere l'offesa? E fino a quel punto arrivasse erano considerazioni che provocavano un'uguale misura di perplessità e preoccupazione. Quell'ordine dato in modo così grossolanamente scortese, cacciarla in fretta senza il minimo riguardo per le sue esigenze, senza nemmeno salvare le apparenze, permettendole di scegliere l'ora e le modalità del viaggio. Tra 2 giorni, fissare il primo e l'ora più mattutina, come se fosse deciso a non averla più in casa quando si sarebbe alzato la mattina, in modo da non essere nemmeno obbligato a vederla. Cosa poteva voler dire tutto ciò se non un deliberato affronto? In un modo o nell'altro doveva aver avuto la sventura di offenderlo. Eleanor desiderava risparmiarle un'idea così dolorosa, ma Catherine non riusciva a credere possibile che una qualsiasi offesa o una qualsiasi disavventura potessero provocare un simile malanimo contro una persona che non c'entrava affatto o che almeno si presumeva che non c'entrasse affatto. La notte fu dura a passare. Il sonno. Un riposo che meritasse il nome di sonno era impossibile. Quella stanza in cui la sua immaginazione sovreccitata l'aveva tormentata il giorno dell'arrivo. Era di nuovo la scena di un animo agitato e di brevi sonni inquieti. Eppure, quanto era diversa ora la fonte della sua inquietudine da quella di allora, quanto era dolorosamente superiore per realtà e sostanza. La sua ansia si fondava su fatti accaduti, le sue paure sui fatti probabili, e con la mente così occupata nella contemplazione di un male reale e senza niente di soprannaturale, Catherine avvertiva e considerava la sua solitudine, l'oscurità della stanza, l'antichità dell'edificio, senza la minima emozione. E benché il vento fosse forte e producesse spesso rumori strani e improvvisi per tutta la casa, lei lo ascoltava mentre giaceva sveglia ora dopo ora, senza curiosità o terrore. Subito dopo le 6, Eleanor entrò nella stanza, ansiosa di dimostrarsi premurosa e di offrire il suo aiuto se possibile, ma rimaneva ben poco da fare. Catherine non aveva perso tempo, era quasi vestita e i suoi bagagli quasi terminati. Quando apparve la figlia, le venne in mente la possibilità di qualche messaggio pacificatore da parte del generale. Cosa vi sarebbe stato di più naturale se l'ira fosse scemata, sostituita da pentimento? Non sapeva però fino a che punto. Dopo quanto era successo, sarebbe stato giusto accettare delle scuse. Ma anche saperlo sarebbe stato inutile in questo caso, dato che non le veniva richiesto, né la clemenza né la dignità venivano messe alla prova. Eleanor non portava nessun messaggio. Si dissero pochissimo, ognuna si sentiva più sicura tacendo, e mentre rimanevano di sopra, scambiarono poche frasi insignificanti. Catherine, occupatissima a finire di vestirsi, ed Eleanor intenta con più buona volontà che esperienza a riempire il baule. Quando tutto fu pronto, lasciarono la stanza e Catherine si attardò solo un attimo dietro l'amica per lanciare un'occhiata d'addio a ogni oggetto così noto ormai e così caro. Quindi scesero nella sala della colazione, dove quest'ultima era pronta. Cercò di mangiare, sia per risparmiarsi il dolore di sentirsi incitata a far presto, sia per far piacere all'amica, ma non aveva appetito e non riuscì a mandar giù molti bocconi. Il contrasto tra questa colazione e l'ultima che aveva consumato in quella stanza rinnovava la sua infelicità e rafforzava la sua avversione per tutto quello che aveva davanti. Non erano passate 24 ore da quando si erano riuniti davanti allo stesso pasto, ma in circostanze quanto diverse. Con quanta allegria, spensieratezza, con quale felice, benché falsa sicurezza, si era guardata intorno allora, gioendo del presente e poco temendo il futuro, tranne la partenza di Henry che era lì, seduto vicino a lei e l'aveva aiutata a servirsi. Poté indulgere a lungo, indisturbata, in queste riflessioni, poiché la sua compagna non le rivolse la parola e rimase seduta, immersa profondamente anche lei nei propri pensieri. Così l'arrivo della carrozza fu la prima cosa che le fece sobbalzare e le richiamò al momento presente. A quella vista Catherine arrossì e il modo indegno in cui veniva trattata la colpì in quell'istante con forza particolare e la rese per un breve momento sensibile solo al risentimento. Sembrava che ora Eleanor si sentisse spinta a decidersi a parlare. Tu devi scrivermi, Catherine, esclamò. Devi farmi avere tue notizie il più presto possibile, finché non saprò che sei al sicuro a casa tua non avrò un'ora di pace. Devo chiederti a tutti i costi, in ogni caso, almeno una lettera. Fammi avere la tranquillità di sapere che sei al sicuro a Fullerton e hai trovato la tua famiglia in buona salute. E poi, finché non potrò intrattenere con te una vera corrispondenza, non mi aspetterò di più. Indirizzamela dall'Org Longtown. E devo chiedertelo in una busta diretta ad Alice. No, Eleanor, se non ti è permesso ricevere una mia lettera, sono certa che è meglio che io non ti scriva. Non può esserci alcun dubbio che io arrivi a casa sana e salva. Eleanor replicò soltanto: Non posso meravigliarmi per i tuoi sentimenti. Non ti importunerò, confiderò nella stessa gentilezza del tuo cuore quando saremo lontane, ma questo. Con lo sguardo addolorato che l'accompagnava, fu sufficiente a sciogliere l'orgoglio di Catherine in un momento e lei disse: Oh, Eleanor, certo che ti scriverò. C'era ancora un altro punto che la signorina Tilney era ansiosa di definire, benché fosse in qualche modo imbarazzata a parlarne. Le era venuto in mente che dopo un'assenza così lunga da casa, Catherine poteva non essere provvista di denaro sufficiente per le spese del viaggio e dopo avervi alluso nel modo più affettuoso, offrendosi di sistemare la cosa, vide che la sua supposizione si dimostrava esatta. Catherine fino a quel momento non ci aveva mai pensato, ma dopo aver esaminato il borsellino si convinse che, se non fosse stato per questa gentilezza dell'amica, avrebbe potuto venire cacciata da quella casa senza nemmeno i mezzi per raggiungere la propria. E poiché i pensieri di entrambe correvano alle angustie in cui si sarebbe trovata in quel caso, tutte e due sì e no pronunciarono un'altra parola durante il tempo in cui ancora rimasero insieme. Quel tempo comunque fu breve. Presto fu annunciato che la carrozza era pronta. Catherine si alzò immediatamente e un lungo e affettuoso abbraccio prese il posto delle parole nel momento dell'addio. E quando entrarono nell'atrio, incapace di lasciare la casa senza nemmeno menzionare colui il cui nome nessuna delle due aveva pronunciato, lei si fermò un momento e con labbra tremanti disse in modo appena intelligibile di salutare gentilmente il suo amico assente. Ma così vicina a pronunciare il suo nome, non riuscì più a soffocare i propri sentimenti e nascondendo come poteva il viso nel fazzoletto, sfrecciò attraverso l'atrio, salì in carrozza. E in un momento fu trasportata lontano. Capitolo 29. Catherine era troppo infelice per aver paura. Il viaggio in sé non aveva motivi per spaventarla e lei lo cominciò senza temere la lunghezza né la solitudine. Abbandonata in un angolo della carrozza, in preda a un violento accesso di pianto, fu trasportata alcune miglia oltre le mura dell'abbazia prima che alzasse la testa. E il punto più alto del terreno all'interno del parco era quasi scomparso alla vista prima che lei riuscisse a volgervi lo sguardo. Sfortunatamente, la strada lungo la quale ora viaggiava era la stessa che solo 10 giorni prima aveva percorso così felicemente andando e tornando da Woodstone, e per 14 miglia ogni sentimento di amarezza fu reso più acuto dal rivedere quegli oggetti che la prima volta aveva guardato in uno stato d'animo così diverso. Ogni miglio, dato che la portava più vicina a Woodstone, aggravava le sue sofferenze e quando a 5 miglia di distanza dal paese ella sorpassò il bivio che vi conduceva e pensò a Harry, così vicino eppure così ignaro, il suo dolore e la sua agitazione raggiunsero il massimo. La giornata che aveva passato in quel posto era stata una delle più felici della sua vita. Era stato laggiù, era stato quel giorno che il generale aveva usato quelle espressioni riguardo a lei e Harry, e con le parole e con i gesti le aveva dato la netta sensazione che desiderava veramente il loro matrimonio. Sì, solo 10 giorni prima egli l'aveva resa orgogliosa con la sua evidente considerazione, l'aveva perfino messa in imbarazzo con le sue allusioni troppo significative. E ora, che cosa aveva fatto o che cosa non aveva fatto per meritare un tale cambiamento? L'unica offesa contro di lui di cui potesse accusarsi era stata quella di cui era impossibile che egli fosse venuto a conoscenza. Soltanto Harry e il proprio cuore conoscevano il segreto dei terribili sospetti che lei aveva nutrito così scioccamente, e lei era convinta che il suo segreto era ugualmente al sicuro con entrambi. Di proposito, almeno Harry non poteva averla tradita. In effetti, se il padre, per qualsiasi strana e sventurata circostanza, fosse venuto a conoscenza di quello che lei aveva osato pensare e cercare, delle sue fantasie immotivate, delle sue offensive ispezioni, non avrebbe potuto minimamente meravigliarsi della sua indignazione. Se si era reso conto che lei l'aveva visto come un assassino, non avrebbe potuto meravigliarsi neppure del fatto che l'aveva cacciata di casa. Ma lei confidava che l'altro non potesse addurre una giustificazione che l'avrebbe torturata tanto. Per quanto ansiose fossero tutte le sue congetture su questo punto, non era questo comunque quello su cui si soffermava di più. C'era un pensiero ancora più vicino, una preoccupazione più predominante, più impetuosa. Che cosa avrebbe pensato Harry? Che cosa avrebbe provato? Quali sarebbero state le sue impressioni quando l'indomani fosse tornato a Northanger e avesse saputo che lei se n'era andata? Era una domanda la cui forza e il cui interesse superavano quelli di qualsiasi altra. Una domanda che non smetteva di riproporsi, a volte per addolorarla, a volte per consolarla, a volte Suggeriva il timore della sua fredda acquiescenza, altre la risposta consisteva nella più dolce fiducia, nel dolore e nel risentimento di lui. Al generale naturalmente non avrebbe osato parlare, ma a Eleanor cosa c'era che non potesse dire a Eleanor su di lei? In questo continuo inseguirsi di dubbi e domande, su ogni punto dei quali la sua mente era incapace di soffermarsi più di un momento, le ore passarono e il suo viaggio procedette più velocemente di quanto si era aspettata. L'angoscia che opprimeva i suoi pensieri le impediva di notare qualunque cosa si trovasse davanti e una volta superato il circondario di Woodstone le risparmiò di far caso al percorso. E benché niente della strada potesse trattenere un momento la sua attenzione, non trovò noiosa nessuna parte del viaggio. La salvò dalla noia anche un altro motivo, e cioè il fatto che non era minimamente ansiosa che il suo viaggio si concludesse. Poiché ritornare in quel modo Fullerton significava quasi distruggere il piacere di un incontro con coloro che amava di più, anche dopo un'assenza come la sua, un'assenza di 11 settimane, che cosa poteva dire che non umiliasse lei e non addolorasse la sua famiglia, che non aumentasse, confessandolo, il suo dolore, che non estendesse un inutile risentimento e che forse non coinvolgesse l'innocente con il colpevole in una malevolenza senza distinzioni. Non sarebbe mai riuscita a rendere giustizia ai meriti di Harry e di Eleanor. Era qualcosa che sentiva con troppa forza per esprimerla. E se fossero stati presi in antipatia, se avessero generato un'impressione sfavorevole per colpa del padre, oh, questo l'avrebbe ferita nel profondo del cuore. Con questi sentimenti, lei, più che desiderare, temeva la vista di quella ben nota guglia che le avrebbe annunciato che era a 20 miglia da casa. Lasciando Northanger, sapeva che la sua destinazione era Salisbury, ma dopo la prima parte del viaggio aveva dovuto affidarsi agli ufficiali postali per i nomi dei luoghi da attraversare per giungervi. Tanto grande era la sua ignoranza del percorso. Non incontrò niente, comunque, che potesse angustiarla o spaventarla. La sua gioventù, i modi cortesi e le paghe generose le procuravano tutte le attenzioni che una viaggiatrice come lei poteva richiedere, e fermandosi solo per cambiare i cavalli, continuò a viaggiare per circa 11 ore, senza nessun incidente e nessun motivo di timore, e tra le 6 e le 7 di sera si ritrovò alle porte di Fullerton. Un'eroina che ritorna alla fine della sua carriera al paese natio, in tutto il trionfo della sua riconquistata reputazione e tutta la dignità di una contessa, con un lungo seguito di parenti nobili nelle loro carrozze e 3 cameriere che la seguono in un tiro a quattro. È un evento su cui la penna di chi inventa può ben gioire a soffermarsi. Dà credito a ogni conclusione e l'autore o l'autrice non può che condividere la gloria che dispensa con tanta liberalità. Ma la faccenda, per quanto mi riguarda, è completamente diversa. Riporto a casa la mia eroina in solitudine e in disgrazia e nessuna dolce esultanza di spirito può indurmi a soffermarmi sui particolari. Un'eroina in una diligenza postale a Nolo è un colpo tale inferto al sentimentalismo che nessun tentativo di grandiosità o di pathos può resistervi. Il postiglione quindi le farà attraversare velocemente il paese tra gli sguardi incuriositi dei gruppetti domenicali e lei scenderà rapidamente dalla carrozza. Ma qualunque fossero le angustie dell'animo di Catherine mentre si avvicinava alla canonica e qualunque sia l'umiliazione della sua biografia nel raccontarle, stava preparando una gioia non comune a coloro dai quali si recava, prima con la comparsa della sua carrozza e poi con quella della sua persona, dato che era raro vedere a Fullerton la carrozza di un viaggiatore. L'intera famiglia fu immediatamente alla finestra e vederla fermarsi al cancello fu un piacere tale da illuminare ogni sguardo e risvegliare ogni fantasia. Un piacere del tutto inatteso per tutti, tranne che per i due bambini più piccoli, un maschietto e una femminuccia di 6 e 4 anni, che in ogni carrozza si aspettavano sempre un fratello o una sorella. Felice lo sguardo che per primo scorse Catherine, felice la voce che proclamò la scoperta. Ma se tale felicità fosse proprietà legittima di George o di Harriet, non si poté mai capire con esattezza. Il padre, la madre, Sara, George e Harriet, tutti riuniti alla porta per darle il benvenuto con affetto sincero, furono una vista tale da risvegliare i migliori sentimenti del cuore di Catherine. E nell'abbraccio di ognuno di loro, quando scese dalla carrozza, trovò una consolazione molto maggiore di quanto lei stessa avrebbe creduto possibile. Così circondata, così accarezzata, era perfino felice. Dapprima la gioia dell'affetto familiare superò qualsiasi altra cosa, e il piacere di vederla lasciò ben poco spazio a una pacata curiosità. Si ritrovarono così tutti seduti intorno al tavolo del tè che la signora Morland aveva apparecchiato in fretta per rifocillare. La povera viaggiatrice, il cui aspetto pallido e affaticato aveva subito attratto la sua attenzione, prima ancora di rivolgerle qualunque domanda, tanto diretta da esigere una risposta precisa. Con riluttanza e con molta esitazione, lei cominciò allora quella che forse, dopo una mezz'ora, la cortesia dei suoi ascoltatori avrebbe potuto definire una spiegazione, ma in quel lasso di tempo essi non poterono certo scoprire la causa o raccogliere i particolari del suo improvviso ritorno. Erano ben lontani dall'essere tipi iracondi, non prendevano fuoco facilmente, né erano eccessivamente permalosi, ma in questo caso, quando l'intera faccenda fu spiegata, emerse un insulto che non si poteva ignorare, né per la prima mezz'ora perdonare a cuor leggero. Pur non abbandonandosi a errori romantici, considerando il viaggio lungo e solitario della figlia, i signori Morland non potevano fare a meno di sentire che si sarebbe potuta trovare in una situazione molto sgradevole, cosa che loro non avrebbero mai potuto tollerare, e che imponendole una simile situazione, il generale Tilney non si era comportato né con onore, né con sensibilità, né come un gentiluomo, né come un genitore. Perché l'avesse fatto, cosa potessero averlo provocato fino a fargli infrangere in quel modo le leggi dell'ospitalità e cosa avesse mutato così improvvisamente la stima e il favore che aveva dimostrato alla loro figliola in una vera e propria malevolenza, era una faccenda che essi erano lontani dall'indovinare, almeno quanto la stessa Catherine. Ma non li tormentò certo ugualmente a lungo. E dopo un adeguato lasso di tempo dedicato alle congetture, la conclusione che era uno strano affare e che doveva trattarsi di un uomo molto strano soddisfece tutta la loro meraviglia e indignazione, benché Sara in effetti indulgesse ancora nelle dolcezze dell'incredulità, lanciando esclamazioni e formulando congetture con ardore giovanile. «Mia cara, tu ti angusti inutilmente», disse finalmente la madre. «Stai pur certa che è qualcosa che non vale assolutamente la pena di comprendere». Posso capire il suo desiderio che Catherine se ne andasse quando si è ricordato questo impegno, disse Sara, ma perché non farlo con cortesia? Mi dispiace per i giovani, replicò la signorina Morland. Deve essere stato triste per loro. Ma per quanto riguarda tutto il resto, non ha alcuna importanza ora. Catherine è a casa, sana e salva, e la nostra serenità non dipende dal generale Tilney. Catherine sospirò. Bene. Continuò la sua filosofica madre. Sono contenta di non aver saputo del tuo viaggio al momento, ma ora che è tutto finito, forse non è stato un grande danno. È sempre un bene che i giovani si trovino a cavarsela da soli e tu, lo sai, mia cara Catherine, sei sempre stata una creaturina così sbadata, ma ora devi essere stata obbligata ad avere prontezza di spirito, con tutto quel cambiare di carrozze e così via. E spero che non verrà fuori che hai dimenticato qualcosa da qualche parte. Anche Catherine lo sperava e cercò di provare interesse per la propria crescita intellettuale, ma si sentiva molto abbattuta. E ritrovarsi da sola, in silenzio, diventò presto il suo unico desiderio, così che acconsentì prontamente al nuovo consiglio della madre, che la invitava ad andare a letto presto. I genitori, poiché non vedevano nel suo aspetto stanco e nella sua agitazione nient'altro che la conseguenza naturale dell'umiliazione subita e dello sforzo e della fatica insoliti dovuti a un simile viaggio, si separarono da lei, convinti che un buon sonno l'avrebbe rimessa completamente in sesto. E anche se quando si rividero tutti la mattina dopo lei non si era ripresa quanto avevano sperato, non ebbero comunque nessun sospetto che esistesse un qualche male più profondo. Non pensavano neppure una volta al suo cuore, il che, per i genitori di una signorina di 17 anni, appena ritornata dal suo primo viaggio lontano da casa, era abbastanza strano. Appena terminata la colazione, Catherine sedette per mantenere la promessa fatta a Eleanor Tilney, la cui fiducia nell'effetto del tempo e della lontananza dall'amica trovava già una conferma, poiché Catherine già si rimproverava per essersi separata freddamente da Eleanor, per non aver mai valutato abbastanza i suoi meriti e la sua gentilezza, e non averla compatita abbastanza per quello che il giorno prima era rimasta a sopportare. La forza di questi sentimenti, comunque, era ben lontana dall'aiutare la sua penna, e mai aveva trovato più difficile scrivere che nel rivolgersi a Eleanor Tilney. Comporre una lettera che potesse contemporaneamente rendere giustizia ai suoi sentimenti e alla sua situazione, esprimere gratitudine ma non rimpianto servile, essere misurata ma non fredda e sincera senza nessun risentimento, una lettera la cui lettura non addolorasse Eleanor e di cui lei non dovesse arrossire nel caso Henry l'avesse vista, era un compito che la spaventava tanto da annullare qualsiasi sua capacità di eseguirlo. E dopo lunghe riflessioni e molta perplessità, essere molto breve fu tutto quello che riuscì a decidere, certa di non sbagliare. Il denaro che Eleanor le aveva prestato fu quindi accluso, con poco più che sinceri ringraziamenti e mille dei più affettuosi auguri. È una strana amicizia, osservò la signora Morland quando la lettera fu finita, presto stretta e presto finita. Mi dispiace che sia così, perché la signora Allen pensava che fossero dei giovani molto simpatici. E purtroppo sei stata sfortunata anche con la tua Isabella. Ah, povero James. Bene, si vive per imparare. E spero che i tuoi prossimi amici saranno più degni di rimanere tali. Catherine arrossì mentre rispondeva appassionatamente: Nessuna amica può essere più degna di Eleanor. Se è così, mia cara, immagino che vi incontrerete di nuovo una volta o l'altra, non angustiarti. 10-1 che vi troverete insieme nel giro di pochi anni, e che gioia sarà allora. Il tentativo della signora Morland di consolarla non fu felice. La speranza di rincontrarsi nel giro di pochi anni poteva solo mettere in mente a Catherine quello che avrebbe potuto accadere in quel lasso di tempo, che avrebbe reso quell'incontro terribile per lei. Non avrebbe mai potuto dimenticare Henry Tilney, né pensare a lui con tenerezza minore di quella che provava in quel momento. Ma lui poteva anche dimenticarla e in quel caso incontrarsi. Gli occhi le si riempirono di lacrime quando si immaginò quell'amicizia così rinnovata e la madre, rendendosi conto che i suoi suggerimenti confortanti non avevano avuto un buon effetto, propose come nuovo espediente, per farla tornare del suo solito umore, di andare a trovare la signora Allen. Le due case distavano solo un quarto di miglio e camminando la signora Morland liquidò rapidamente tutto quello che pensava a proposito della delusione di James. Ci dispiace per lui, disse, ma per il resto la rottura del fidanzamento non è stata certo un danno. Non sarebbe stata una cosa desiderabile vederlo fidanzato con una ragazza che non conoscevamo affatto e non aveva nessuna dote. E ora, dopo un simile comportamento, non possiamo assolutamente pensare bene di lei. Al momento è dura per il povero James, ma non durerà per sempre. E credo che sarà un uomo più prudente per tutta la vita, dopo la stupidità della sua prima scelta. Questa opinione sulla faccenda era sufficientemente sommaria perché Catherine potesse ascoltarla. Un'altra frase avrebbe potuto forse incrinare la sua condiscendenza e rendere la sua risposta meno razionale. Infatti, tutte le sue capacità intellettive furono presto assorbite dalla riflessione sul proprio cambiamento di sentimenti e di stato d'animo dall'ultima volta in cui aveva percorso quella strada a lei così nota. Non erano passati 3 mesi da quando, eccitata da gioiose aspettative, era corsa avanti e indietro almeno 10 volte al giorno, il cuore leggero, gaio, indipendente, in attesa di piaceri sconosciuti e schietti, e libera dalla preoccupazione del male come dalla conoscenza di esso. 3 mesi prima l'avevano vista proprio così, e ora che era tornata, com'era diversa. Fu ricevuta dagli Allen con tutta la gentilezza che il suo arrivo inaspettato risvegliava spontaneamente in chi le era sinceramente affezionato. E grande fu la loro sorpresa e sincero il loro dispiacere quando sentirono come era stata trattata, anche se il racconto della signora Morland non fu né una rappresentazione gonfiata né un appello studiato alle loro passioni. Catherine ci ha colto proprio di sorpresa ieri sera, disse. Ha viaggiato da sola in diligenza per tutta la strada e non ha saputo nemmeno che sarebbe tornata fino a sabato sera. Il generale Tilney, infatti, per qualche strano capriccio, all'improvviso si è stancato di averla lì e l'ha quasi cacciata di casa. Molto scortese, certo, deve essere un uomo molto strano. Ma siamo felici di averla di nuovo con noi ed è un gran conforto scoprire che non è una povera creatura indifesa, ma sa arrangiarsi benissimo da sola. Il signor Allen si espresse in quell'occasione con il giusto risentimento di un amico assennato, e la signora Allen considerò le sue espressioni abbastanza adeguate da ripeterle immediatamente lei stessa. La sua meraviglia, le sue congetture, le sue spiegazioni diventarono successivamente quelle di lei con l'aggiunta di questo unico commento. Vi assicuro che il generale mi fa perdere la pazienza, per riempire qualsiasi pausa fortuita. E vi assicuro che il generale mi fa perdere la pazienza fu pronunciato due volte dopo che il signor Allen lasciò la stanza, senza nessuna attenuazione dell'ira né alcuna digressione essenziale sull'argomento. La terza ripetizione fu accompagnata da un'intonazione molto più distratta e, dopo averla completata per la quarta volta, aggiunse immediatamente: «Pensa, mia cara, che prima di lasciare Bath mi sono fatta rammendare quell'orribile enorme buco nel mio miglior merletto in modo così perfetto che non si vede nemmeno più. Devo mostrartelo un giorno o l'altro. Bath è un bel posto, Catherine, dopo tutto». Ti assicuro che non avevo nessuna voglia di venir via. Che la signora Thorpe fosse là era un simile conforto per noi, vero? Ti ricordi? All'inizio tu e io eravamo proprio sperdute. Sì, ma non durò a lungo, disse Catherine, e gli occhi le brillarono, ricordando chi per primo aveva ravvivato la sua esistenza laggiù. Verissimo, abbiamo incontrato subito la signora Thorpe e non ci è mancato più niente. Mia cara, non trovi che questi guanti di seta resistano a meraviglia? Li ho messi nuovi la prima volta che siamo andati alle lower rooms, sai, e da allora li ho portati moltissimo. Ricordi quella sera? Se la ricordo, oh, perfettamente. Fu molto piacevole, vero? Il signor Tilney beve il tè con noi e io l'ho sempre considerato un ottimo supplemento alla compagnia. È così simpatico. Mi sembra che tu abbia danzato con lui, ma non ne sono sicura. Ricordo che indossavo il mio abito preferito. Catherine non poté rispondere e, dopo aver tentato brevemente di toccare altri argomenti, la signora Allen ritornò al suo. Vi assicuro che il generale mi fa perdere la pazienza. Sembrava un uomo più ben educato. Hanno riaffittato il suo alloggio il giorno dopo la sua partenza, Catherine. Ma non c'è da meravigliarsi, Milsom Street, sai. Mentre tornavano a casa, la signora Morland cercò di inculcare nell'animo della figlia la gioia di avere delle persone che le volevano sempre bene come i signori Allen e la pochissima importanza che avrebbe dovuto avere per lei l'abbandono o la scortesia di conoscenti occasionali come i Tilney, quando poteva conservare la buona opinione e l'affetto dei suoi primi amici. Vi era molto buon senso in tutto ciò, ma vi sono alcuni stati d'animo in cui il buon senso serve a poco. E i sentimenti di Catherine contrastavano quasi con tutto ciò che diceva la madre. Al momento, infatti, era proprio dal comportamento di questi conoscenti occasionali che dipendeva tutta la sua attuale felicità. E mentre la signora Morland confermava felicemente le proprie opinioni con l'esattezza delle proprie dimostrazioni, Catherine rifletteva in silenzio che ora Harry doveva essere arrivato a Northanger. Ora doveva avere saputo della sua partenza e ora forse stavano tutti mettendosi in viaggio per Hereford.